Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro, Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Pavin in collaborazione con Amisne. Un saluto a tutte e tutti dalla redazione di Mediaset. Oggi andiamo ad aprire un ciclo di due puntate relative al futuro del lavoro nella società post-industriale, quindi tempo di lavoro, tempo libero dal lavoro. Andremo ad analizzare questo tema leggendo alcuni saggi e niente, dalla regia Andrea e Cristiano alla voce. E adesso dove vai? A passare il tuo tempo libero. E come lo passi il tuo tempo libero? Davanti al televisore o al biliardo? O a parlare di calcio, eh? La crisi della Juventus è che è uno scoprimento. Devi telefonare ad Agnelli, prendere delle decisioni, che pure il tempo passa, torna tua moglie e che gli dici? Oppure vai a fare un altro lavoro? Padrone non ti bastano mai, perché sono pochi. Un tempo il possesso di un orologio da parte di un lavoratore era visto come un'infrazione al principio che il tempo di lavoro appartiene alla dirigenza. Non era insolito per i proprietari delle fabbriche impedire ai lavoratori di portare con sé i propri orologi. La diffusa pratica di regalare un orologio d'oro al dipendente che va in pensione simboleggia l'emancipazione del lavoratore da questo tipo di controllo. Da quel momento in avanti il suo tempo è proprio suo, anche letteralmente. Addio al lavoro, questo è uno degli ultimi saggi di Riccardo Antunes, Metamorfosi del mondo del lavoro nell'età della globalizzazione. All'interno di questo saggio ben confezionato troviamo un paragrafo che è assolutamente pertinente al tema di oggi, ossia tempo di lavoro e tempo libero per una vita piena di senso dentro e fuori dal lavoro. La riduzione della giornata o del tempo settimanale di lavoro è stata una delle più importanti rivendicazioni del mondo del lavoro, comincia così Antunes, una volta che si è costituito un meccanismo di contrapposizione allo sfruttamento del plus lavoro realizzato dal capitale a partire dalla sua genesi nella rivoluzione industriale fino ad oggi, all'accumulazione flessibile dell'era del toyotismo e delle macchine informatizzate. Fin dall'avvento del capitalismo, la riduzione della giornata di lavoro si mostra come azione centrale dei lavoratori, condizione preliminare per una vita emancipata. Al giorno d'oggi questa formulazione acquista ancora più concretezza poiché si mostra in modo contingente come un meccanismo importante, benché se considerato isolatamente abbastanza limitato, per tentare di minimizzare la disoccupazione strutturale che colpisce un insieme enorme di lavoratori e lavoratrici. Thank you. ma trascende di molto questa sfera dell'immediatezza, una volta che la discussione della riduzione della giornata di lavoro si configura come un punto di partenza decisivo, ancorato all'universo della vita quotidiana, per permettere, da un lato, una riflessione fondamentale sul tempo, il tempo di lavoro, l'autocontrollo sul tempo di lavoro e il tempo di vita, e dall'altro l'affiorare di una vita fornita di senso fuori del lavoro. Continua lo scritto dicendo che lottare per il controllo e la riduzione del tempo oppressivo di lavoro, ciò bisogna appunto lottare contro questa oppressione, ciò proprio perché la riduzione formale dell'orario di lavoro può corrispondere a un aumento reale del tempo di lavoro impiegato durante questo periodo. Come tante altre categorie, anche la temporalità è una costruzione storico-sociale. Come diceva Mark Twain, non mi piace il lavoro nemmeno quando lo fanno gli altri. Con ciò entriamo in un altro punto che consideriamo cruciale. Una vita piena di senso fuori dal lavoro suppone una vita dotata di senso dentro il lavoro. Non è possibile rendere compatibile il lavoro salariato, feticizzato ed estraniato con il tempo veramente libero. Una vita priva di senso nel lavoro è incompatibile con una vita piena di senso fuori dal lavoro. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello, cacciaviti con impianti radar miniaturizzati incorporati, computer ad attivazione vocale. Considerazioni precedentemente fatte ci permettono di indicare alcune conclusioni. Primo, che la lotta per la riduzione della giornata o del tempo di lavoro deve essere al centro delle azioni del mondo del lavoro oggi su scala mondiale. Lottare per la riduzione del lavoro, mirando sul piano più immediato a minimizzare la brutale disoccupazione strutturale che è conseguenza della logica distruttiva del capitale. ridurre la giornata o il tempo di lavoro affinché non proliferi ancora di più la società dei precarizzati e dei disoccupati. Quindi alla giusta consegna, lavorare meno per lavorare tutti, deve tuttavia aggiungersene un'altra e non meno decisiva: produrre cosa e per chi. Il diritto al lavoro è una rivendicazione necessaria non perché si apprezzi e si veneri il lavoro salariato, eterodeterminato, estraniato e feticizzato, che comunque deve essere radicalmente eliminato con la fine del capitale, ma perché essere fuori dal lavoro nell'universo del capitalismo vigente, particolarmente per la massa di lavoratori e lavoratrici che vivono nel cosiddetto terzo mondo, sprovvisti completamente di veri strumenti di sicurezza sociale, significa una mancanza di effettività, una mancanza di realtà e una brutalizzazione ancora maggiore rispetto a quelle già vissuti dalla classe che vive di lavoro. Così in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, di autobus, che cervella poco a poco se ne scappa. Però questa lotta per il diritto al lavoro a tempo ridotto e per l'ampliamento del tempo fuori dal lavoro, il cosiddetto tempo libero, senza riduzione di salario, il che è molto differente dal flessibilizzare la giornata lavorativa, una volta che questa si trova in sintonia con la logica del capitale, deve essere intimamente articolata alla lotta contro il sistema di metabolismo sociale del capitale, che converte il tempo libero in tempo di consumo per il capitale. La società civile deve tendere a non ricreare lo stesso ruolo che ha nei posti di lavoro anche al di fuori di questi, ossia non deve protrarre quel tipo di azioni che esercita chiaramente ed esplicitamente nei posti di lavoro. Thank you. questo modo la lotta contemporanea immediata per la riduzione della giornata o del tempo di lavoro e la lotta per l'occupazione, anziché escludersi a vicenda, diventano necessariamente complementari. E così le aspirazioni per un lavoro pieno di senso e per una vita autentica fuori dal lavoro, per un tempo disponibile per il lavoro e per un tempo veramente libero e autonomo fuori dal lavoro. Entrambi pertanto fuori del controllo e comando oppressivo del capitale, si trasformano in elementi essenziali per la costruzione di una società non più regolata dal sistema del metabolismo sociale del capitale e i suoi meccanismi di subordinazione, il che ci porta a sostenere, indicandone i fondamenti sociali, un nuovo sistema di metabolismo sociale. Con queste parole chiudiamo lo scritto di Riccardo Antunes, addio al lavoro, metamorfosi del mondo del lavoro nell'età della globalizzazione, edito da BFS. Potrebbe dire che l'ideale del datore di lavoro è avere la produzione senza i dipendenti, mentre quello del dipendente è il reddito senza lavoro. La riduzione necessaria, a parer nostro, dell'orario di lavoro va anche nella direzione di evitare quello che sta o che sta per accadere negli Stati Uniti, dove un dispositivo è stato inventato, un dispositivo che permette di spiare lo stato emotivo di tutti i dipendenti. In the sad town, the party of clowns outside. Rain falls in grey, far away. Please. Ne veniamo a conoscenza da un articolo del 13 marzo di quest'anno, un articolo di Francesco Piccioni sul Manifesto Capitale e Lavoro. Appunto, alla fine di questo mese, scrive Piccioni, la 3DI, terzo occhio per puro caso, presenterà a Las Vegas il suo prodotto più avanzato, il Security Alert Tracking System, un sistema complesso che ha il suo punto di forza in un piccolo device. A prima vista sembra un normale orologio con tanto di cinturino, privo però di quadrante o di display. In realtà contiene un biochip in grado di rilevare sia la frequenza del battito cardiaco che i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue, tramite il controllo continuo dei livelli di emoglobina. Quando i due parametri raggiungono una certa soglia, il dispositivo invia un segnale d'allarme alla centrale di controllo in modalità wireless, è ovvio, e all'insaputa dell'indossatore. Il principio medico-scientifico è semplice: battito del cuore e saturazione del sangue variano nelle situazioni di stress, come quando ci si trova davanti a una minaccia o si è impegnati in un'attività illegale. Il segnale permette di attivare la webcam dedicata al sensore e verificare in dettaglio cosa stia facendo il portatore del device lampeggiante. Like a continua Piccioni dicendo che appunto si potrebbe venire a creare un equivoco. Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di una variante high tech del braccialetto elettronico da fare indossare ai detenuti in permesso premio o agli arresti domiciliari, e quindi dirsi frettolosamente d'accordo perché immagina si tratti di un marchingegno destinato ad aumentare la sicurezza di tanta brava gente che pensa solo a lavorare. Errore, continua Piccioni. Destinatari di questo braccialetto sono proprio i lavoratori. La centrale di controllo, la parte più costosa del pacchetto venduto dalla 3DI, è pensata infatti per una fabbrica come un casinò, una banca tanto quanto un supermercato, un ministero come una sede centrale di multinazionale. Richiesta blocco mentale per cellula operativa, regolare su manipolatore. Richiesta blocco mentale per DHX1138. Attenzione, precedenza assoluta. Provvediamo al controllo dell'informazione. 1138 presenta una violazione di personalità da parte del soggetto SEN5241. Provvedere immediatamente. Sembra che ora sia riuscito a concentrarsi. Recupero riuscito. Operazione 7615 sintetizzata. Periodo di controllo le informazioni sul soggetto THX1138. 1138. Personalità da soggetto SEN5241, precedenza assoluta. Richiesto blocco mentale per cellula operativa 94107, soggetto 1138, prefisso THX. Riferire al comando, ripeto, precedenza assoluta. Leggendo i dépliant che descrivono il prodotto si può fare un'esperienza esilarante, brividi per la schiena a parte. Viene esaltato un processo non invasivo molto importante che implementa la sicurezza degli addetti al lavoro, nonché infine per capire quali impiegati siano impegnati in attività illecite. Il campo di applicazione è potenzialmente infinito. I fannulloni nel mirino del notissimo professor Ichino possono cominciare a tremare. Problema psicotecnologico: i fannulloni potrebbero presentare meno di altri variazioni significative nella frequenza cardiaca, e questo è assolutamente vero. Gli innamorati della collega di fronte faranno meglio a cambiare parto, sta chiaramente ironizzando Piccioni su questa cosa. E però questa piccola diavoleria è soltanto uno dei mille segnali concreti dell'evoluzione della macchina produttiva verso un controllo totale sul lavoratore. Un segnale che spiega comunque come la tecnica di per sé di certo non è liberatoria. Viviamo in un mondo di merci che incorporano queste quote crescenti di tecnologia e impariamo ad usarle fino a non poterne fare a meno. Molte di queste ci hanno effettivamente sollevato da un numero incredibile di impegni fisicamente improbri. Si pensi soltanto alla funzione rivoluzionaria della lavoratrice nel protagonismo sociale delle donne, consegnandoci però ad altre e più sottili dipendenze. Tutto questo appunto per dire che il lavoro deve tendere a essere sempre più liberato appunto verso questo futuro, che deve portarlo non solo ad una riduzione delle ore di lavoro, ma sicuramente ad una minore forma di controllo su questo. E con questo andiamo a chiudere la puntata di oggi, che apre appunto un ciclo di due puntate sul tema del tempo di lavoro. Ricordiamo la nostra mail, che è mediaset@gmail.com. Un saluto a tutti.